Sto scrivendo nuove pagine alla mia storia, pensando di cominciare il viaggio per la gioia, guardando gli occhi tuoi che baciano i miei ricordi, così lontano da quell'esser mio perduto. Sto scrivendo nuove pagine sulla mia vita, ricostruendo tutto ciò che ho già dato, ma nulla è più semplice del donarsi a te, mi hai reso pieno lo spazio che il cielo metta di me. Eppure credevamo ad ogni costo di essere fieri di giocare con noi stessi, quando invece all'improvviso lì dal cielo qualche angelo ci ha riuniti in quel che siamo. In fondo al cuore uno specchio invisibile al dolore ha lasciato esplodere l'emozione, ogni casa è il luogo dell'amore, il nostro grande amore. Basta invece solo una sensazione, senza aprir bocca tutto si comprende al volo, il volo inspiegabilmente dolce di un gabbiano. Non c'è paura né incertezza del domani, perché l'amore la voglia di lottare in due al futuro, perché insieme si è nel bene indivisibile. In fondo al cuore uno specchio invisibile al dolore ha lasciato esplodere l'emozione, ogni casa è il luogo dell'amore, il nostro grande amore. Specchio invisibile al dolore ha lasciato esplodere l'emozione, ogni casa è il luogo dell'amore, il nostro grande amore.